Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro interessante ed originale, Luigini contro Contadini, il lato oscuro della questione settentrionale, edito da Guerini e Associati. L'autore è Gabrio Casati, un nome che forse non vi è nuovo, ma che fa ricordare un ministro della Real Casa, un ministro dell'Ottocento, ministro dell'Istruzione, che è stato assunto come autore da un gruppo di persone, un autore collettivo, un autore milanese che appunto con questo nome hanno scritto questo libro e altre cose, e rimangono anonimi, non vogliono uscire allo scoperto se non per l'originalità delle loro analisi, un'analisi molto interessante questa sulla questione settentrionale. Però per un'intervista alla radio sono usciti allo scoperto almeno in voce, e quindi salutiamo Gabrio Casati. Buonasera Gabrio Casati. Buonasera, buonasera a tutti. Così come salutiamo Jacopo Tondelli. Buonasera Tondelli. Buonasera. Tondelli, giornalista, direttore dell'inchiesta.it, l'inchiesta tutto attaccato con la K, un sito internet di informazione, anche questo molto originale e con molte provocazioni, che ha scritto Tondelli la postfazione, che è proprio un'intervista a Gabrio Casati. Allora facciamo dire a Tondelli come ha rintracciato Gabrio Casati. Ma è stato Gabrio Casati a rintracciare me, lo spieghiamo anche nella postfazione. Facevo il giornalista riformista, curavo le pagine milanesi del Riformista, e a un certo punto mi si presentarono questi molteplici soggetti che però volevano essere uno nella capacità di analisi, nel saper mettere insieme le loro diverse competenze, intelligenze, saperi, e il risultato finale è che sono stato molto onorato quando Gabrio Casati mi ha chiesto di curare un'intervista postfazione al loro libro, perché oltre a trovarla una provocazione ricca, solida e interessante per il dibattito economico-politico del paese, beh, Gabrio Casati è una voce di cui sentiremo parlare secondo me nei prossimi anni. Allora, sentiamo da Gabrio Casati come si sente a vivere una seconda volta, perché ha deciso di resuscitare facendo appunto queste analisi sociali, politiche ed economiche. Ma fu necessario trovare un nome collettivo per tenere tutti sotto un'unica identità per fittizia. E come splendidamente spiega Giulio Sapelli, il professor Sapelli, nell'introduzione, tiriamo fuori il nome di Gabrio Casati in quanto podestà di Milano e trattativista durante le 5 giornate di Milano per l'opzione unitaria col Piemonte. E con quel nome uscimmo appunto grazie a Tondelli, alle pagine del Nord curate sul Riformista, uscimmo per alcuni anni, poi siamo stati un po' in giro per vari siti online tra cui Affari Italiani, e adesso siamo riemersi con questo libro. Un libro che, dice Sapelli, è abbastanza cattivo, che avrebbe voluto scriverlo lui. Luigini e Contadini, ecco, qui si richiama anche un altro grande, Carlo Levi, che proprio con questi termini definiva due realtà della società italiana. E Tondelli, quali sono queste due realtà, Luigini e Contadini, chi sono? Ma la dico breve, la dico per come l'ho capita e intesa io. Luigini e Contadini sono rispettivamente chi brucia il reddito e il profitto e chi lo crea. I contadini in particolare sono, nell'interpretazione che poi Gabrio Casati dà di questo passo dimenticato e meritoriamente da Gabrio Casati ricordato di Carlo Levi, i contadini sono tutti coloro che stanno dalla parte della produzione reale di benessere, di profitto, di reddito, di quello che anche una volta si sarebbe chiamato plusvalore, cioè lavoratori, artigiani, piccoli imprenditori, imprenditori medi della manifattura italiana che non vivono di sussidi ma vivono invece nel sempre più difficile, sempre più globale competizione economica. E chi sono invece i Luigini? Beh, i Luigini sono tutti coloro che della reddito e del profitto creato vivono in maniera, se vogliamo, un po' parassitaria, e quindi sono il grande Stato e parastato italiano, sono la cosiddetta spesa pubblica improduttiva, ma sono anche la grande impresa che in fondo vive di sostegno, sussidio ed è continuamente alimentata dalle tasse che pagano gli altri. Ecco, un carattere dei Luigini è un elemento in più che hanno catturato, come si dice adesso, il legislatore. Il legislatore in pratica opera più a servizio dei Luigini, cioè di coloro che vivono grazie alle risorse pubbliche, che non dei contadini, che sono quelli che producono poi la ricchezza privata. E questo è un po' il problema dell'Italia, lo chiedo a Gabrio Casati. Sì, è il problema dell'Italia, anche se bisogna essere franchi, è un problema di natura collettiva. L'ultimo pezzo splendido di Guido Rossi sul Sole 24 Ore si riferisce a questo, Robert Reich ne parla diffusamente, all'Accademia Americana ne parla diffusamente. Quello della cattura del legislatore è un fenomeno di carattere mondiale. La specificità della cattura del legislatore in Italia è che sopra la cattura del legislatore i Luigini portano il loro dato storicamente e ineliminabilmente corporativo. Possiamo dire con una battuta che se i Luigini americani sono sì uniti dinanzi al Congresso e se lo mangiano nella capacità del Congresso di fare legislazione, sono poi ferocemente uno contro l'altro per la conquista capitalistica del successo, cosa che in Italia sembra non accadere. L'altra peculiarità dei Luigini italiani, e con questo concludo questo piccolo passo, è senza dubbio il fatto che i Luigini hanno sì la capacità di estrarre extra profitti dai contadini a loro piacimento. Pensiamo agli aumenti in bolletta non giustificati da nulla, pensiamo alle pratiche predatorie di certe banche, pensiamo agli aumenti tariffari sui traffici autostradali non giustificati da nulla. Ma i contadini italiani contemporaneamente sono anche sottoposti a un'estrazione indiretta per via di tasse per mantenere gli altri attori di quello che abbiamo chiamato il patto, che è quello che ci sembra stia trascinando il paese verso una stagnazione profonda, se non un evidente declino. Ecco, quindi siamo di fronte a un problema nazionale. Come mai, io chiedo a Tondelli, si parla di questione settentrionale? Beh, insomma, come sarebbe molto più strano se non se ne parlasse, no? Visto che è ormai un grande tema dell'agenda politica da 20 anni almeno, da quando insomma tutti i lunghi squilibri, il libro ben analizza, e non solo questo libro, penso anche agli studi di Luca Ricolfi ad esempio, sono diventati parte della consapevolezza condivisa del Nord. La Lega Nord è stato un fenomeno conseguente e per certi versi poi ha cavalcato questa consapevolezza, ma diciamo che la questione settentrionale non sia solo un tema di retorica, ma sia un problema che tutti i giorni i ceti produttivi per lo più dislocati al Nord conoscono e affrontano. Questo è un dato di fatto, sarebbe davvero difficile non parlarne. Semmai ci si potrebbe chiedere come mai dopo 20 anni il problema è sostanzialmente intatto e non si vede all'orizzonte una cosiddetta soluzione della questione settentrionale. Lì sarebbe interessante capire ad esempio a quali tesi finali arrivano gli autori di Gabrio Casati. Ecco, allora proprio l'ultima domanda lo chiediamo a Gabrio Casati: quale può essere la soluzione, se la soluzione non è la secessione, non è la soluzione diciamo così leghista, anche se un po' propagandistica, quale può essere la soluzione in 30 secondi, Gabrio Casati? In 30 secondi il libro cerca di evidenziarla, ovviamente è molto chiaro il libro, la soluzione che proponiamo è la costituzione, l'avvio di un processo politico per arrivare a costituire il partito dei contadini, il cui unico obiettivo debba essere quello di indebolire la capacità di condizionamento del patto e riportare i contadini al centro dell'interesse. È ovvio, il libro è molto chiaro su questo, un processo di questo tipo non si avvia né tantomeno si conclude nelle pagine di un libro. È un processo collettivo che nella collettività deve essere fatta, ma vuole essere una vera e propria operazione post-novecentesca e post-ideologica. Riprendere i concetti fondamentali di classe per riadattarli in una chiave moderna in cui trovare una, e secondo noi è possibile ed è doveroso, un comune narrazione per cui l'imprenditore medio e il ragazzo ventottenne che risponde con contratto a tempo determinato e flessibile alla Telecom possono sentirsi legittimamente parte dello stesso soggetto e avere in questo momento e per il futuro gli stessi interessi. Quindi un richiamo alla responsabilità, un richiamo alla partecipazione, un richiamo che, devo dirlo, sulla base di un libro che non è ideologico ma è fondato su dati di fatto, su statistiche, su grafici, su analisi molto concrete che portano appunto alla ribalta i profondi problemi dell'Italia, ma con un ottimismo di fondo, perché c'è la possibilità di esserne coscienti e quindi di fare un passo per la loro soluzione. Io ringrazio Jacopo Tondelli, così come ringrazio il portavoce di Gabrio Casati. Vi ricordo il libro appunto di Gabrio Casati, Luigini contro contadini, il lato oscuro della questione settentrionale. Sono 160 pagine per 16,50 euro, edito da Guerini e Associati. Così come ringrazio Valeria Bernardi in regia, Dita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.